Buongiorno ragazzi, giovedì mattina, solito appuntamento, 35 gradi oggi, ma i leoni non mollano ragazzi, eccoli lì, sono tutti lì, qui altro che ciupiti di Bobovieri. Tutti convocati, di Carlo Genta. Avere un po' di rispetto delle persone, no? Non parlare. Allora, tanto è inutile. Non parlare con nessuno, non parlare. Mi sa tanto di una beffa studiata per umiliare Alex Svazze, per umiliare chi di noi gli stava accanto, laddove questo atleta di grande talento sarebbe venuto per conquistare dei risultati, doveva venire invece per prendere la mannaia sopra la testa. Noi, non avendo la prova materiale di chi ha manomesso, abbiamo solo potuto mettere in evidenza come questa presenza di metaboliti contrasta in maniera totale con il quadro complessivo dei controlli fatti. Alex Svazze non è quello che è stato descritto, è un ragazzo timido, è un ragazzo allegro, semplice, con le armi spuntate contro questi volponi che gestiscono lo sport. Dunque è condanna a morte sportiva, 8 anni di squalifica per Alex Svazze, senza attenuanti, così ha deciso il tribunale improvvisato di Rio de Janeiro. Giovanni Capuano, ciao. Ciao. Stanno per prendere l'aereo lui e Donati. Guarda, abbiamo parlato qualche minuto fa con Sandro Donati, che insomma ha vissuto una notte particolare, evidentemente. La notte anche sua in questo momento a Rio de Janeiro è mattina presto, sta andando in aeroporto e poi si imbarcherà e ha detto domani ci sentiamo e facciamo domani il ci punto. Sentiamo, facciamo il punto. Comunque i fatti sono questi, cioè i dati sono questi, la sentenza è questa. 8 anni di squalifica per Svazze, ovviamente condanna a morte sportiva, ovviamente niente Olimpiadi, ovviamente niente attenuanti per lui. Allora io vi invito a chiamare 800240024 è il numero verde adesso e poi nell'appuntamento olimpico, tutti convocati alle Olimpiadi dalle 18 alle 20 come ogni sera in questo periodo olimpico, e a lasciare segreteria telefonica oggi via WhatsApp 349-238-6666, a lasciare i vostri messaggi di qualunque colore o segno siano per Svazze e per Donati. Ti ricordi l'altro giorno quando l'abbiamo avuto ospite, Giovanni? Io ho detto a Donati, ho l'impressione che abbiano voluto colpire te, che Svazze sia quasi il bersaglio collaterale, e lui ha detto questo mi provoca molto dolore, però la mia sensazione rimane quella, cioè che si sia voluto colpire in questo momento il grande censore Sandro Donati, utilizzando, perdonatemi la parola, Alex Svazze. Abbiamo in linea Claudio Arrigoni, che è nostro amico storico e che è colui che sulla Gazzetta dello Sport ha per primo pubblicato la notizia della positività di Alex Svazze a quel dannato controllo del primo di gennaio di quest'anno. La mia reazione istantanea è stata: brutto bastardo, l'hai fatto ancora. Poi, capendo invece la situazione, ho mutato totalmente idea, perché l'idea si può anche cambiare. E allora la mia sensazione di questo momento e di queste ultime settimane, di questi ultimi due mesi, è quella che ho detto, cioè Alex Svazze è stato colpito per fare del male a lui e al suo entourage. Non ci sono le prove, ovviamente il TAS non le ha trovate, e dunque la condanna a morte sportiva. Ciao Claudio. Ciao Carlo, ciao a tutti voi, grazie per la convocazione. Grazie a te. La mia idea non cambia ed è questa, Claudio. Ma è chiaro che ognuno si può fare la sua, ci mancherebbe altro. Io spesso in questi ultime settimane sono stato un po' accusato di essere contro Svazze, contro Donati, la Gazzetta dello Sport è stata accusata un po' di questo. noi abbiamo solo cercato di raccontare un po' quello che stava succedendo, poi l'ho fatto un po' io, l'ha fatto Valerio Piccioni, che tra l'altro è molto vicino, molto amico di Sandro Donati, e lo sono anch'io naturalmente, non conosco Schwarzer, quindi non posso dare dei giudizi umani precisi su di lui. Dico solo che la giustizia non si fa con le sensazioni, quindi è legittima anche la tua sensazione, ma la giustizia non si fa con le sensazioni. Rimane un fatto che in una provetta ci fosse traccia di marcatori di steroidi anabolizzanti. Questo rimane. Sì, questo è il fatto. Questi sono i fatti sui quali si è appoggiato il tribunale. Sì, un altro fatto è anche che dobbiamo aspettare di leggerla, questa sentenza, con tutte le sue motivazioni. Tra l'altro, davanti al TAS si discuteva soprattutto della tempistica e del diritto di difesa negato, comunque compresso. E anche delle procedure, Giovanni. E questo perché ovviamente la speranza era, oltre che entrare nel merito, era per Alex Schwarzer di poter recuperare la possibilità di partecipare all'Olimpiade. Per la quale si era preparato e che, dice Sandro Donati, avrebbe vinto con le mani in tasca anche da non dopato. Però poi è evidente che questa vicenda qui assume altri contorni. Io, ad esempio, oggi ho trovato particolarmente fuori luogo le parole di Gianmarco Tamberi, uno che già c'era andato pesante quando Schwarzer, allora non ancora positivo per la seconda volta, almeno non si sapeva, non era ancora stato testato quella provetta. Insomma, oggi ha detto: beh, l'hanno pescato due volte, è giusto, sta fuori, ed è finita qui. In linea di principio è condivisibile. Sì. Cioè, ti pescano due volte e sei fuori. Però nei 100 metri vedremo Gatlin, che io ho visto vincere ad Atene dopato come un cavallo. Noi stiamo vedendo vincere medaglie, nuotatori, gente che... Siamo in un momento epocale in cui ci sono nuotatori, ci sono atleti del massimo livello, da Phelps in giù, che accusano altri atleti, altri loro colleghi, di fare la pipì viola, di nascondersi contro l'antidoping, che dicono non mi va di vedere quello sul podio, non mi va di scendere in vasca con chi è dopato, e due, tre atleti di quelli che partecipano alle finali prendono le bombe. Ho l'impressione che siamo in un momento epocale, non so se Claudio Rigoni condivide. No, condivido assolutamente. Ciao Giovanni, prima di tutto, ecco, non ti avevo sentito prima. Condivido assolutamente, dico però anche che non per questo, non perché lo facciano tutti, bisogna giustificare tutto. No, ma ci mancherebbe. Sai, Tamberi ha detto su Schwarzer le cose che nei giorni scorsi, noi abbiamo fatto tra l'altro anche due pagine su questo, dicono un po' molti atleti che sono all'Olimpiade. Il doping va combattuto, poi tutti speravamo, ha ragione Giovanni, tutti speravamo che fosse qualcosa che non c'entrasse con delle assunzioni volontarie da parte dell'atleta, da parte di Alex. Ci mancherebbe altro, sarebbe stata, è vero, anche secondo me una medaglia d'oro sicura per l'Italia. Detto questo, le medaglie d'oro si devono vincere senza tutti questi sospetti, quindi anche gli atleti che avete citato, sarebbe bello se i sospetti non li avessero. Sì, però Claudio, perdonami. Solo una cosa, Giovanni, cioè, io voglio chiedere una cosa. E sulle procedure, poi un po' di spiegazioni ci sono, non è che il TAS non le ha prese in considerazione. Però io voglio dire, e tu hai perfettamente ragione, sarebbe tutto bello, ma noi veniamo da settimane e non abbiamo ancora finito, perché ci sono atleti che non sanno se parteciperanno o se sono ancora fuori. Cioè, noi veniamo da settimane in cui c'è la netta sensazione che alcune riammissioni e alcune esclusioni siano fatte sulla base di non si capisce cosa. Ad esempio il cinese Sun, di cui abbiamo parlato ieri. Per non avere cattivi pensieri, cinese. Non si capisce sulla base di cosa. Sinceramente, io interpreto il sentimento di chi fa fatica a fidarsi di una vicenda che comunque presenta delle certezze. Dentro quella provetta c'era quella traccia, ma anche una marea di questioni di cui discutere, che non sono marginali, sicuramente saranno state discusse al TAS, però questa è una cosa che prende dentro, e poi secondo me apre anche un altro tema, insomma, che è quello di Schwarzer, che è stato più o meno abbandonato al suo destino, è andato lì, ci ha messo la faccia, si è difeso. Io credo fosse impossibile acriticamente prendere le posizioni del complotto, ad esempio per il CONI, come fa il CONI a dire è vittima di un complotto. Però credo ad esempio che la pantomima di passare da fine luglio al 4, all'8, al verdetto, forse il 12, io ricordo Malagò parlare di Carolina Kostner all'epoca della squalifica paradossale per la mancata denuncia, sempre nella vicenda di Svazer. E io francamente non ho trovato che qualcuno abbia alzato la mano per dire però vediamo di rispettare la dignità di questo processo. A questo indubbiamente, forse naturalmente si poteva anche intervenire da questo punto di vista, ci mancherebbe altro. Io non sono il difensore della IAF, non sono il difensore di nessuno in questo caso. Quello sicuramente non è stato bello, poi la IAF ne ha fatte anche diverse in passato, quindi non sono qua a dire che lì sono tutti belli puliti e che la IAF è cambiata da quella di Hack, ci mancherebbe, non lo so, ho detto sinceramente. Sulla vicenda però di Schwarzer, secondo me i punti chiari sono un po' meno dei punti oscuri. Poi ripeto, io ero il primo a tifare perché non fosse così e perché lui potesse marciare, però molte cose hanno una spiegazione, ecco. Sai, c'è chi ha parlato di ma perché era indicata la località, perché normalmente si indica la località, ma proprio normalmente, in tutti i test, tutte le analisi è indicata la località. Se avessero analizzato Tamberi sarebbe scritto Ancona. Molto semplicemente, questo è giusto o sbagliato? Non lo so, secondo me è sbagliato, forse sarebbe meglio mettere un codice, però succede per tutti gli atleti, non è che è successo solo per lui. Sì, sì. E si potrebbe andare avanti, ecco. Questo proprio nel momento storico che accennava prima Carlo, ecco, non sarebbe stato, diciamo, facilissimo, ecco, far marciare Alex. Io l'ho sperato e devo essere sincero, però ecco, capisco di più le sensazioni, cioè quelle di cui mi ha parlato Carlo poco fa, che chi mi parla di complotti, di cose oscure, di ecco, allora, perché lì una spiegazione c'è. Sulle sensazioni ognuno, Claudio, ognuno le sue se le tiene, cioè è così, ma sono anche quelle degli italiani che scrivono messaggi, guarda, ne stanno arrivando una tonnellata, ma è così, sono sensazioni, come dicevi giustamente tu Giovanni, è una faccenda che ti prende dentro, non nel senso che ti prende le emozioni. Poi la verità la conosce Svazer, la conosce Sandro Donati, non so quanto lo conosca il Tax. Voglio chiedere una cosa da Claudio Arrigoni invece: qual è la tua sensazione di fronte a un comitato olimpico che, stante le accuse degli atleti, ripeto, da Phelps in giù e soprattutto nelle piscine del nuoto, dice ragazzi fate i bravi, usate il fair play, non rompete i coglioni perché lo spettacolo deve andare avanti, non accusate ingiustamente. Qual è la tua sensazione di fronte a questo? A me dà un fastidio tremendo. Anche a me, perché poi le accuse sono sempre pesantissime. Allora io credo che se tu devi accusare devi essere circostanziato e non puoi dire ma guarda, ma vado in una cosa lontanissima che non c'entra niente col doping, eccetera. A me fece malissimo quel giorno che Caster Semenya, che è un atleta che io ho conosciuto, che conosco e che mi piace tantissimo, vinse gli 800 metri a un mondiale e subito dopo un atleta, fra l'altro italiana, disse ma lui è un uomo, invece di usare il lei come sarebbe giusto per Caster, se no lui è un uomo non può. Ecco, e non ci scostazio niente, era solo perché la vedeva un po' più androgena. Ecco, qui è la stessa cosa, o circostanzi oppure lasci perdere, secondo, questo è il mio parere naturalmente. Sì, che è del tutto legittimo, Claudio, che è del tutto legittimo, anche perché poi quando ci sono le accuse ci devono essere anche le prove, ci devono essere anche dei fondamenti e ci deve essere un tribunale credibile che giudichi sulla base di tutto questo. Claudio, grazie a voi, buon lavoro. Ciao Claudio, grazie, buon lavoro anche a te. Grazie Claudio Arrigoni. Sentiamo Cesare della provincia di Ravenna prima del traffico. Sì, Cesare, buongiorno. Dica. Io sono innanzitutto preoccupato per la salute mentale di Svarzer. Io sono un innocentista, ma non c'entra niente, perché, ripeto, non ho letto le carte. Siamo sempre prove. A sensazioni, Cesare. Siamo sempre a sensazioni. Quindi sono sensazioni. Però io sono preoccupato per la situazione mentale, lo status mentale, perché è una persona comunque che ha dimostrato in più di un'occasione di essere veramente fragile. È una situazione di questo tipo, una sentenza, una buffonata per come è stata fatta, perché non potevano al limite fare prima, no? Dire prima, non farlo andare il giorno prima della gara. C'è stata una roba veramente vergognosa su cui il nostro CONI potrebbe intervenire, sono andato sulle modalità, sulla dovrebbe, forma. Dovrebbe, ma non adesso, tanto, doveva. Doveva, ma tanto il CONI e il Comitato Olimpico sono strutture politiche, perché per risolvere il problema del doping si potrebbe fare una sola cosa, cioè dare ragione ai cosiddetti ultranzisti, cioè quello che dicono: benissimo, io ti becco che ti sei dopato volutamente, tu hai finito di fare la carriera sportiva, mica sei un delinquente, puoi lavorare, fare la tua attività, però non fai più uno sportivo. Ed è l'unica soluzione, chiaramente dando più garanzie per la difesa, evidentemente, cioè essere un po' più circostanziato il processo e il procedimento. Però se non si fa così, si ha sempre questo, appunto, il Gatlin, l'Efimova, Sunyan anche sembra che faccia la bipidiola, poi dopo Svarzer che non può fare la competizione. Dopo è veramente l'idea del comporto, una regola certa e via andare. Con questa regola certa però probabilmente avremo metà degli atleti olimpici, penso io, questa è una mia piccola puntualizzazione, tutto qui. Sì, che è legittima, però deve essere scritta nero su bianco la legge. Non possiamo deve essere scritta, quello che resta è questa sensazione, insomma, forte, che divide. Ne stanno arrivando tanti di messaggi, 349-238-6666, c'è chi scrive che insomma è stato fregato, l'hanno fatto fuori, il TAS, c'è un altro messaggio, il TAS conferma di essere debole con i forti e forte con i deboli, e poi invece magari c'è qualcun altro che legittimamente scrive: qualcuno mi spieghi la differenza tra il caso Svazer e il caso doping di Stato della Russia. Secondo me le differenze ci sono e sono a tonnellate, però questa è una vicenda in cui io credo nessuno in maniera serena possa dire di aver maturato la certezza di quella che è la risposta. E credo che sia questo. 800 24 00 24, aspettiamo gli ascoltatori adesso e stasera e alle 18, quindi chiamatevi, prenotate e poi andiamo avanti a parlarne anche alle 18 in tutti i convocati alle Olimpiadi, e mandateci i vostri WhatsApp anche vocali 349 238 6666, e poi li faremo sentire. Segreteria telefonica oggi dedicata a questo argomento. Traffico. Nel merito non mi permetto assolutamente di dire niente, non sarebbe serio, non sarebbe neanche corretto. Nella tempistica, certo, insomma, fa riflettere alcune cose. Tutti convocati. Tutti convocati. Per Di Vergara. E allora se ne va proprio da questa parte il tentativo per il Sassuolo di Trotta. E arriva il gol del 3-2, guardate Galliani, da 0-2 a 3-2 contro il Milan per il Sassuolo, con Trotta dopo l'errore di Vergara lanciato a 2 per 2, niente da fare per Diego Lopez. Facciamo anche due chiacchiere sul Milan di ieri e magari poi sul mercato che è sempre lì pronto a darci delle notizie, no? Sul punto di... Sì, poi cerchiamo di capire, perché in realtà ci avviciniamo all'inizio della stagione. Intanto oggi gira questo comunicato dei nuovi proprietari del Milan, che ufficializzano quello che si sapeva, cioè che Marco Fassone sarà il prossimo direttore generale e amministratore delegato della società, il che, messo nero su bianco, apre poi tutto il ragionamento su quello che sarà il futuro di Galliani, su quello che potrà succedere se qualche bandiera entrerà in società, chi sarà Albertini, Maldini, Costa Curta, le mille domande. In tutto questo c'è Montella, che secondo me sta facendo un lavoro dignitosissimo per cercare di dare una forma a una squadra che evidentemente ancora molto lontana. Non dimenticarti da dove viene Montella, come ha trascorso gli ultimi mesi della scorsa stagione. Per lui questo deve essere una specie di paradiso rispetto a quello che ha vissuto con la Sampdoria. Ciao Cicciordine, Franco, ciao. Eccomi qua. Ciao. Senti, no, ha ragione Giovanni, Montella è lì in mezzo ai fuochi, che sta provando a costruire una squadra. Più che in mezzo ai fuochi, scusami, però più che in mezzo ai fuochi, lui sta vivendo anche lui la sua stagione di passaggio, perché è evidente che è arrivato con un Milan che già sapeva che sarebbe stato ceduto, quindi sapeva che non c'erano grandi mezzi a disposizione per fare subito la grande squadra, e quindi credo che il suo pensiero in questo momento sia: cerchiamo di tappare le falle che in questo momento l'attuale rosa ha, e poi eventualmente a gennaio proviamo a fare il salto di qualità. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia il massimo della chiarezza, mentre invece io ho qualche perplessità su il futuro allestimento della società. Se volete poi vi spiego perché. Sull'idea che davvero possa essere finita la stagione di Galliani o cosa? No, in questo senso. Allora, io dico questo. Io conosco bene e apprezzo molto anche le qualità di Fassone. Però Fassone ha determinate caratteristiche, e cioè ha le caratteristiche del direttore generale più che dell'amministratore delegato. E soprattutto mi sembra, lui ha già detto per esempio che ha bisogno di un direttore sportivo, perché non fa come Galliani, che si occupa anche dell'area sportiva. Benissimo, poi vedremo chi sceglierà. Naturalmente è escluso che possa scegliere Ausilio, perché non è che può fare a Milanello la succursale dell'Inter. Ma secondo te Ausilio sarebbe un buon DS, a parte che verrebbe eventualmente dall'Inter? Scadenza di contratto, No, ma io lo stimo molto, credo tutto sommato che questa voce del Milan sia un bel contributo per accelerare le procedure per il rinnovo del suo contratto all'Inter. Però voglio dire, non è che c'è soltanto Ausilio in circolazione, sento parlare di altri, Prade eccetera. Io per esempio personalmente, se dovessi fare un nome, io farei il nome di uno che in questo momento lavora alla grande, ma non in Italia ma in Spagna, e cioè Berthe, che lavora all'Atletico di Madrid. Ma questo è un mio giudizio che non conta nulla. Invece dico che ci sono poi altre materie, come quelle della politica sportiva, come quelle dei diritti televisivi, come quelle del marketing, nel quale obiettivamente Galliani è un numero uno. Allora io penso che un accorto, tra virgolette, amministratore, la prima cosa da fare è quello di, se tu hai a disposizione uno bravo, io provo a tenerlo. Poi naturalmente Franco, ma tu ti vedi la possibilità che Galliani, tra l'altro in una società che insomma, se tutto va come è stato detto, sarà deberlusconizzata, cioè sarà senza Berlusconi, perché Berlusconi, al di là del titolo di presidente onorario, non avrà un'azione, cioè avrà più azioni l'avvocato La Scala, per dire, il presidente dei piccoli azionisti del Milan, cioè tu ti vedi che quelli restano, quelli restano, quelli restano, sono bravi, quelli sono bravissimi. Ma tu ti aspetti che in questa situazione Galliani, che ha sempre detto io sono legato al presidente, quello che fa lui, quello che dice lui eccetera, possa accettare comunque un ridimensionamento? No, ma lì si tratterà, io non so se posso accettarlo o meno, poi dipenderà innanzitutto da quello che decide il presidente Berlusconi di Galliani, e poi dipenderà da Galliani stesso. Io dico che una delega di qualche area a Cosa Galliani, io, se fossi io in Fassone, la proposta gliela farei. Poi Galliani dice di no, è un altro ragionamento. Io penso un'altra cosa a proposito della frase che hai detto poco fa, cioè deberlusconizzare. È un errore clamoroso fare una roba del genere, perché quella formula, magari riportata all'originale, è la formula che ha rivoluzionato il calcio italiano e che ha fatto del Milan, preso sull'orlo del fallimento della gestione Giussi Farina, il titolato al mondo. Non bisogna assolutamente dimenticarlo. Però Franco, è legittimo e normale che i nuovi proprietari... No, ma non è solo legittimo e normale. Tagliano quel cordone ombelicale, no? Sì, ragazzi, ma sarà pure normale, ma i nuovi proprietari di calcio, con tutto il rispetto, sanno poco di Italia, sanno ancora meno di Milan stanno zero. Allora, certo, però, allora, no, scusate, però a me pare di aver capito che non è un problema di che cosa vogliono i nuovi proprietari, è una scelta dei Fininvest e della famiglia Berlusconi, chiudere definitivamente il rapporto. Troverei abbastanza strano che Berlusconi possa avere un ruolo nel prossimo Milan. Allora si teneva il 20%, il 15%, ma scusa, 30%, ma cosa quello che poteva essere. Ma cosa? Io non sto parlando di quello, Giovanni, cerca di capirmi. Io sto dicendo non che deve rimanere Fininvest o la famiglia Berlusconi nel Milan, sto dicendo che il criterio guida, i criteri guida del Milan, che sono firmati Silvio Berlusconi, devono rimanere, devono essere il caposaldo anche di quest'altro, di quest'altra avventura milanista, altrimenti secondo me si corre il rischio di fare quello che è successo all'Inter tra Moratti e Toi. A, che c'era gente che parlava inglese e non si capiva niente. B, che non c'era un'idea stracciata. C, che venivano come dire, in qualche modo condizionati dall'opinione pubblica. Io sto dicendo non che deve esserci qualcuno di Fininvest o della famiglia Berlusconi coinvolto, sto dicendo il contrario. Sto dicendo, e cioè, che i criteri che hanno ispirato la conduzione del Milan da parte di Silvio Berlusconi non devono essere dimenticati. Su questo siamo d'accordo, Franco. È quello sto dicendo. Stiamo parlando di filosofia, stiamo parlando di... No, qualche filosofia. La filosofia la facciamo noi alla radio. Ah. Io sto parlando di letteratura. Uh-huh. Io sto dicendo i criteri fondamentali. Allora, faccio un esempio su tutti per capirci. Il Milan non dovrà mai abdicare, per esempio, alla cultura del gioco e del buon gioco. Ecco perché ritengo, tra l'altro, come voi, che Montella sia stata una buona scelta. Uh-huh. Poi non darà frutti immediati perché la cifra tecnica e la qualità del gruppo sono quelle che sono. Ma il fatto che lui chiede alla squadra di giocare è già un segno, come dire, di conferma di uno dei criteri guida che ha avuto il Milan dell'era Berlusconi. Sì. Grazie Franco, ci saluti, sentiamo presto. Grazie Franco Ordine. Io trovo però una differenza essenziale, no? Può essere accolto quanto dice Franco Ordine, cioè la filosofia del Milan deve essere quella e non deve essere deberlusconizzato. Però trovo che comunque la prima mossa della nuova proprietà cinese, cioè quella di designare comunque un plenipotenziario alla guida del Milan, Fassone, poi può piacere oppure no, può essere considerato all'altezza oppure no, sia già una prima mossa di buon senso, cosa che invece Suning non ha fatto con l'Inter. Sì, a parte che Suning ce l'aveva, perché quando Suning non l'ha fatto, cioè, l'aveva fatto Toir, perché Toir si era tenuto Fassone per quasi due stagioni, prima poi di chiudere il rapporto. La scelta è sicuramente di buon senso. Il problema è che poi le società sono fatte i risultati, secondo me anche immediati, e ripeto, Montella sta facendo un lavoro assolutamente dignitoso in questa fase con una squadra che non è costruita per fare il suo calcio, però Montella, e lui è il primo a saperlo molto intelligentemente, ha fretta di fare risultati. Beh, sì. Perché poi si fa in fretta ad appassire anche nella considerazione dei nuovi proprietari, dei tifosi e di chi giudica il tuo lavoro. Facciamo un paio di telefonate, dai. Carlo Giuseppe? Aspetta, no, abbiamo la borsa, poi Carlo Giuseppe, naturalmente. 800 24 00 24, numero verde. Pigi il verde, ora. Ma subito, te ti addormenti. Pigi il verde, dai. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Arrivarono con il vento di carnevale, Vian e sua figlia Anouk, che a 6 anni il mondo aveva ancora una luce speciale. Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. Di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Tutti convocati. Giovanni in attesa di Giovanni Capuano, naturalmente, mio compagno di banco, in attesa di poi riaprire le discussioni, di ricevere i vostri WhatsApp vocali 349-238-6666, segreteria per mandare messaggi ad Alex Schwarzer e magari a Sandro Donati questa sera dalle 18 alle 20 in Tutti convocati alle Olimpiadi. Ascoltatori, Carlo, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Pisano. Sì. Su Alex Schwarzer, io sono certo che sia tutta una macchinazione, è impossibile provarla. Stiamo sempre parlando di sensazioni, no? Certezze che derivano da sensazioni. No, io la sensazione non ce l'ho, una certezza. Io ho partecipato a un incontro con Alex Schwarzer il 29 giugno, perché il 29 maggio lui ha fatto un incontro in un paese vicino a Bolzano, c'erano anche i suoi avvocati, c'era il presidente della società di atletica di Bressanone per la quale Alex è tesserato, e lui ha parlato in maniera molto tranquilla della sua vicenda, del primo caso di doping, dell'unico caso di doping. Io sono certo che l'uomo è a posto. Detto questo, mi chiedo, l'unico dubbio che ho è come mai Donati, quando ha ricevuto la telefonata del giudice internazionale, non l'abbia immediatamente denunciata. Questa è una cosa che mi piacerebbe chiedere direttamente a Donati. Lo faremo domani. Glielo chiediamo, perché domani è legittimo porre qualunque tipo di domanda, posto che, e altri audio li abbiamo sentiti sul sito di Repubblica che ha fatto quel meraviglioso docufilm, chi vuole se lo guardi anche oggi, dopo la squalifica per 8 anni. E poi vengono anche tante domande, cioè se ad esempio è opportuno che il medico che dispone dei tuoi controlli e della tua vita sportiva sia quello che tu hai denunciato alla Procura della Repubblica, anche questo è un tema, e che poi hai sentito dire quelle cose al telefono, quelle che su Schwarzer, su Carolina Koster, sulla necessità di azzerare il gruppo di lavoro, sono tante domande che restano lì, galleggiano in evase. Mettiamo anche questa, Sandro Donati, avremo modo di fargliela sicuramente, però, domani se lo sentiamo. Però quello che sia chiaro è che quello che dice il nostro ascoltatore, che dice Carlo, io non sono certo la certezza non ce l'ha nessuno, esatto. La mia sensazione, quello che sento è questo, quello che penso è questo, quello che stava dentro quella provetta è quell'altro, quello che ha deciso il TAS è la condanna a morte sportiva. Giuseppe. Buongiorno, grazie per essere convocato. A lei, dica. Io volevo intervenire sul caso Schwarzer. Anch'io, come il precedente ascoltatore, sono del parere che sentendo la persona del marciatore e soprattutto i Donati, mi chiedo come può un personaggio, sapendo di essere controllato, perché quando uno sapendo di essere controllato possa non ci credo a questa cosa, e va bene, sono tutte sensazioni. Perfetto. Ma è giusto che più ascoltatori abbiano queste sensazioni, perché secondo me è il capo, è tutto quella marceria che c'è dentro il CONI. Perché mi volete spiegare perché non facciano la legge, come diceva un ascoltatore prima? Sei dopato, benissimo, fuori dalle scatole. Ci sarebbero ancora le Olimpiadi, i paesi dell'Est, sarebbero ancora. Quindi sono loro i primi, quei burocrati, e come diceva il vostro inviato molto simpatico, Torrini, che dicevano, esatto, che viaggiavano nella classe, mentre sono atleti che per 4 anni fanno sacrifici per una medaglia. Sì. Diceva ieri un ascoltatore che quell'olimpico che ha sbagliato con la pistola, quanto si è dovuto allenare, 35.000 colpi giorno e notte, e così via. E questi qua che viaggiano con la prima classe vengono e ti dicono queste cose. Poi secondo me è una presa in giro, perché potevano dirglielo prima queste cose. L'hanno umiliato, nel senso che lui, siccome secondo me secondo me non ha combinato niente, se no non andava a Rio con tutte queste cose e roba del genere. Sono queste persone qua che vanno. L'unica, CONI, l'unica CONI. Cosa, Giuseppe, noi il CONI non le segniamo critiche, le abbiamo fatte anche prima. Piove il CONI, il CONI non fa le leggi antidoping, esatto, che sono internazionali, e poi c'è chi le applica e spesso non le applica nemmeno il CONI. Ci sono le federazioni, ci sono le agenzie antidoping che dovrebbero essere autonome, c'è rispetto al potere sportivo. C'è la BADA, c'è ci sono le singole federazioni. Questo perché almeno si deve fare un minimo di chiarezza, eh? E noi del CONI abbiamo detto che avrebbe dovuto esporsi con un po' più di chiarezza per chiedere che Alex Vazer fosse processato in maniera corretta, con certo, i tempi giusti, per e non sottoposto a questa cosa qui, per chiedere le giuste garanzie. Poi è giusto, cioè è normale che il sentimento comune sia quello di prendersela con i parrucconi. Ti dicevo prima, piove governo ladro, è un detto che vale sempre. In questo caso, secondo me, non sono state rispettate, non sono stati rispettati i normali diritti giuridici, i normali diritti di chiarezza nelle procedure, normali diritti di tempi certi per una giustizia, fosse anche sportiva, ed è stato in effetti una sorta di linciaggio morale nei confronti di Schwarzer e di Donati, questa cosa, a prescindere dal fatto che sia colpevole o innocente. E qui, ripeto, siamo nel campo delle mere sensazioni individuali e personali. Io voglio andare su un altro tema, però, perché sono curiosissimo. Luca Marchetti da Sky, ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Pensavo ciao. Mi coinvolgesse Schwarzer, so cosa rispondere. Non lo sai, eh? No. Non lo sai. Di certo tu non prendi steroidi anabolizzanti, di sicuro. No, è evidente, peraltro. No. Però non fanno parte della tua dieta. Però se Luca Marchetti, Carlo Genta o chiunque di noi fosse sottoposto a un controllo antidoping, quasi certamente risulterebbe positivo. Perché? Perché qualunque medicinale tu prendi, se giri la scatolina troverai che ci sarà scritto: attenzione, può essere doping contro la freddura, può essere doping, sì, per un atleta professionista. Per l'allergia sono dopato, per l'allergia sono dopato. Quello anch'io, sono le graminace e poi impazzisco. Esatto. Luca, dove va Insigne? Si muove da Napoli? No, perché ieri dicevo per la verità, passi per Higuain, passi per il mercenario, come l'ha definito qualcuno, argentino, ma se dovesse andar via Lorenzino Insigne sarebbe pure peggio dal punto di vista dell'immagine per Napoli. Esattamente, credo, il ragionamento che abbia fatto l'Inter, perché questo interesse che c'è, sarebbe l'alternativa eventualmente a Gabigol come rinforzo offensivo, credo che si sia innestata in un ragionamento molto più ampio che prevede questa battaglia mediatica sul rinnovo di Cardi, sulla cessione di Cardi fra Inter e Napoli, incontri ventilati e poi smentiti, offerte scritte e poi verbali sul discorso di Cardi, che evidentemente all'Inter non sta andando giù, e quindi c'è questa opportunità e la si cavalca, forse più mediaticamente che tecnicamente. Sono i dispetti del mercato, Luca. Io credo che alla fine Icardi resterà all'Inter e Insigne resterà al Napoli. Però io su Insigne al Napoli ci metto, non ci metto la mano sul fuoco, perché nel mercato può veramente succedere di tutto, ma sono ragionevolmente convinto che sia più una manovra di disturbo piuttosto che un interesse concreto tecnico dell'Inter. Ecco, Icardi c'è l'interesse fortissimo del Napoli, questo mi pare piuttosto evidente. Sì, però se l'Inter doveva venderlo, lo vendeva 15 giorni fa, già in ritardo peraltro, per quella che potrebbe essere d'accordo. La programmazione. Oggi siamo all'11 agosto. Ma nella mia infinita, Luca, nella mia infinita perversione continuo a pensare che sia una manfrina quella di Icardi, cioè nel senso che al Napoli faccia comodo. No, io ho un pensiero un po' più sottile, che non ho capito perché De Laurentiis ha deciso di fare un favore a Vandanara. Ha deciso di fare un favore a Vandanara, che di fatto costringerà l'Inter ad andare a un rinnovo abbastanza pesante di quel contratto. Però io voglio anche aggiungere un tema. Oggi è l'11 agosto, mancano 10 giorni, credo, no, al debutto dell'Inter in campionato. Non credi? Ma un club ha potere di evitare che il suo capitano, che ha tolto dal mercato ancora a 10 giorni dall'inizio del campionato, mandi il suo entourage a trattare con un'altra squadra, no, senza dire chiaramente le cose come stanno? Io sono basito. Beh, insomma, è un giocatore sotto contratto. Io capisco che durante il mercato può succedere tutto, però. E quindi? Ma allora, nel mercato le regole ci sono e spesso non vengono rispettate. ci sono delle regole non scritte per cui durante il mercato un incontro col procuratore non si nega a nessuno. Tutto questo però va analizzato in maniera logica, poi la logica spesso ci porta a fare degli errori, però d'altronde di qualcosa dobbiamo parlare. In realtà Icardi stesso non ha mai aperto al Napoli. Se noi consideriamo Twitter o comunque i social il momento di condivisione più diretta possibile fra un giocatore e la propria tifoseria, che cosa ci vuoi fare? Siamo su questa croce, Luca. Che cosa ci vuoi fare? È diventato così. È diventato così, ma Icardi ha soltanto lanciato messaggi d'amore verso l'Inter, verso il suo ex capitano, tanti auguri. O c'è una crisi coniugale o è qualcosa di diverso? C'è il doppio binario di strategia per cui alla fine di questa storia Icardi dirà sempre: io non me ne sono mai voluto andare, però adesso rinnovatemi il contratto. No, per carità, tutto Capuano vero. Capuano sta però, per dire chi agne fotti. No, tutto, per carità. Cioè, io lo ridico, Vandanara è stata straordinaria in questo mese. Alla ma fine, io la voglio come agente. Alla fine porta un'offerta scritta, importante, porta un'offerta di stipendio che è addirittura esagerata per quello che è il valore di Icardi. Il club che ti vuole tenere dovrà aumentarti in maniera considerevole lo stipendio, quindi zitti tutti quelli che un mese fa parlavano male di Vandanara. Però accidenti, non è che all'Inter hanno l'anello al naso, cioè, io dico questo, va bene i messaggi non è che di Twitter di Icardi, cioè, non è che tutti i rinnovi di contratto che sono stati fatti nel mondo del calcio sono stati fatti utilizzando questa visibilità mediatica. Spesso vengono fatti dei rinnovi di contratto molto importanti anche senza tutto questo clamore o senza tutti questi incontri. Sono strategie che a qualcuno piacciono, a me sinceramente piacciono meno, ma questa è un'opinione assolutamente personale. Poi l'importante per il calciatore e per il proprio entourage è arrivare al proprio obiettivo, quindi il rinnovo di contratto, che magari Icardi merita pure, perché faccio anche quest'ulteriore considerazione. Icardi effettivamente il Napoli lo ha cercato, un'offerta scritta l'Inter sul tavolino ce l'ha, è da 48 milioni di euro più 2 di bonus, e in base a quella lì Vandanara molto probabilmente strapperà un ulteriore rinnovo di contratto, certo. Perché peraltro ricordiamoci che Icardi l'ha rinnovato da pochissimo, appunto, il suo contratto. Appunto, l'ha rinnovato da pochissimo, Luca. Discorso diverso per esempio è quello di Insigne. Insigne finora di offerte scritte non ne ha avute, lui può avere tutte le ambizioni di questo mondo e credo che i numeri che lo scorso giorno ha snocciolato al suo entourage siano tutti assolutamente incontrovertibili, ma c'è anche un'offerta da parte del Napoli che in questo momento evidentemente non soddisfa Insigne. Cioè, quello che voglio dire è che non tutti i rinnovi di contratto devono essere per forza fatti sulle pagine dei giornali o sui titoli di Sky. Alle volte alcune strategie possono non pagare, perché è vero che nel calcio funziona tutto, come peraltro nella vita, ma non credo che tutti i tifosi dell'Inter siano stati contenti di come è stata gestita questa vicenda da parte di Icardi e del suo entourage. Ma no, ma è chiaro, ma l'Inter in quale lingua, oltre all'italiano, al cinese, al sudamericano, all'argentino, all'inglese, in quale lingua deve dire Icardi non lo cediamo? Poi dall'altro lato ci sono Icardi che manda messaggi d'amore all'Inter e il suo amore Vandanara che manda messaggi d'amore a Napoli, e in tutto questo alla fine pagherà l'Inter nel senso di un rinnovo contrattuale per Icardi. Luca, che secondo me sarebbe stato uguale, perché se tu ti ricordi, e te lo ricorderai benissimo, ci sarebbe stato lo stesso, perché comunque a fronte di richieste importanti alla fine bisogna essere consapevoli che se tu hai un giocatore importante devi accontentarlo. Non solo perché fa confusione o perché punta i piedi. Pier Ausilio, prima di partire, ormai sembra un anno e mezzo fa, per gli Stati Generali a New York, ha detto: siamo pronti a parlare con il giocatore, rinnoveremo il contratto quando finirà il mercato. Sì. No, ma comunque chiaro che se tu ne parli a settembre hai meno forza contrattuale, perché non hai l'offerta del Napoli da sventolare sotto il naso. È certo che è così. Questo è un gioco delle parti. Cioè, facciamo così: ti nomino mio agente, ti firmo la procura, tu mi vai a fare un'offerta da Sky, io vado a trattare con Radio 24, certo. mi faccio rinnovare il contratto. Poi, però, il gioco però è questo. Sky me la deve scrivere l'offerta, perché se poi dopo l'accetto vieni a Sky. Certo. E poi ti può anche andare bene, ma magari no. Certo, ma il gioco è questo, insomma, non stiamo scoprendo niente di nuovo. Luca, ti chiedo un secondo di pazienza, abbiamo il traffico, poi ti faccio sentire direttamente una cosa interessante. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Tutti convocati. Questa è Wolfsburg, una città dalle tante facce, ma soprattutto è la città simbolo dell'immigrazione italiana in Germania. Dunque, io sono in Germania, sono dal 1963, sono arrivato in questa città che tra l'altro è stata costruita dagli italiani. Qui nel rione Haller Park è nata la storia degli italiani a Wolfsburg. Allora, tutti a Wolfsburg, Giovanni Gavorno ride come un pazzo. Tutti a Wolfsburg a vedere com'è la città. Mandatelo a Zazza. Mandate il video a Zazza. Guardate il video a Zazza. E se ci piace Wolfsburg, magari accettiamo la destinazione. È Luca Marchetti. Beh, penso che sia la palissiana. Se non ci piace, rimaniamo a Torino e la Juve s'arrangi. Eh? Ma secondo te Zazza ha dei dubbi di carattere estetico su Wolfsburg? Di come si mangia? Se mi mandi a giocare nel Barcellona, ma non ti dico nel Barcellona, a Palma di Mallorca, io so com'è, mi mandi a Parigi, mi mandi a Londra. Ma mandarmi a Wolfsburg, aspetta un attimo che vado a dare un'occhiata, no, Luca? Guarda, al di là delle battute. È una prassi piuttosto consolidata quando stai trattando un giocatore che tu o il tuo entourage ha facciato un giro per soprattutto il centro sportivo, perché chi ce l'ha di proprietà ha piacere che tu vada a vedere come sono strutturati bene, come si lavora bene, come si vive bene, che tipo di organizzazione c'è. Questo le grandi società generalmente lo fanno. Tante volte abbiamo anche raccontato delle visite che hanno fatto i giocatori che poi hanno preso Inter, Juve e Milan, che hanno fatto un giro per i vari centri sportivi. Il problema di Zaza con il Wolfsburg è che a noi risulta che questo tour in Germania era previsto appena dopo l'Europeo. Da quello che ci risulta, mettiamo sempre un condizionale che male non fa mai, Zaza non avrebbe trovato il tempo di andare e quindi questo avrebbe indispettito il Wolfsburg una ventina di giorni fa. L'interesse tecnico rimane lo stesso, però diciamo che i rapporti si sono raffreddati un po', forse anche perché Zaza si aspettava qualche chiamata in più da qualche altra squadra. Io questo non lo posso escludere, diciamo tradotto che Zaza non ha poi tutta questa voglia di andare al Wolfsburg. Poi mi dicono vai a fare le vacanze a Wolfsburg, finisco l'Europeo, dove vai in vacanza? A Wolfsburg. Ma sai che culo, oh. Vado a Wolfsburg a fare le vacanze, Al massimo un 2, non è che ci potevi rimanere di più. Non so quanto è grande il centro sportivo, però un paio di giorni al massimo lo vedi tutto, immagino. Credo anch'io. Comunque, con buona pace di Zaza, insomma, della Juventus, io credo che non si muoverà da Torino. No? Credo tu sia d'accordo. Non lo so, questo io non lo so. Perché la Juventus, sotto questo aspetto, avrebbe accettato l'offerta del Wolfsburg sin dall'inizio. Dipenderà molto da lui. Credo che sia uno di quei casi in cui la volontà del giocatore sarà determinante, anche perché lui sa, già l'anno scorso storceva il naso perché giocava molto poco rispetto a quelle che erano le sue aspettative. Quest'anno giocherà ancora di meno. Secondo me sono queste le considerazioni che deve fare un professionista. Sì. Deve dire quanto guadagno, quanto gioco. Poi se sia ogni città al mondo. Ma sicuramente Zaza le farà mentre in macchina guida verso Wolfsburg per andare a vedere. Queste sono le considerazioni che deve fare un professionista. Poi in qualunque città del mondo con il grano si vive bene, Luca. Anche a Manchester si vive bene con il grano. Sei anche un giocatore della Juventus, che in questo momento è sicuramente uno dei top club in Europa, e quando vai via dalla Juve è molto probabile che tu faccia un passo indietro, almeno a livello di prestigio. E questo psicologicamente nelle trattative dal punto di vista dei giocatori pesa. Grazie Luca, alla prossima. Ciao Luca Marchetti da Sky, sempre un piacere enorme parlare con te, un piacere o divertimento, così come è un piacere e un divertimento parlare con gli ascoltatori. E voglia giù. Dai, Giuliano, dai, Antonio dai. E Alessio. Giuliano. Buongiorno, grazie della convocazione. Il mio intervento riguarda la questione doping. Ho sentito prima che i Toni non fa le regole del doping, sono internazionali, sono tanti organismi, eccetera. E abbiamo sentito tante volte atleti, che sono anche un attendista, mi ricordo, giustificati, hanno detto: ma io non credevo, non sapevo, non me l'hanno detto, sono ingiustificati. Siccome mi occupo un po' di informatica, lancerei, non so, anche tramite voi una proposta, perché non esiste un sito internazionale ufficiale dell'organizzazione dove sono elencati tutti i prodotti composti, le formule, le medicinali, eccetera, che se assunti comportano l'imputazione. Giuliano, la lista esiste, la lista esiste, credo anche un sito adesso, questo poi possiamo cercare, ma ti assicuro che gli atleti, gli staff, le federazioni e i comitati olimpici hanno una lista che viene tra l'altro aggiornata quasi mensilmente. Beh, perché il caso del Meldonium, Giovanni. Entrano prodotti, ne escono altri, e quindi da questo punto di vista l'ignoranza non è scusabile. No. E difatti nessuno ha mai preso posizione garantista sull'ignoranza, legis non excusa te, sull'ignoranza esatto di questi prodotti. Qui però stiamo parlando di qualcosa di diverso, e non di ignoranza. Le sensazioni e i dubbi vengono su un altro genere di anomalie. Antonio. Sì, niente, volevo dire due cose, una su Schwarzer, l'altra su Fassone. Barster, penso che non ci siano dubbi che si è dopato, le prove hanno dimostrato quello, quindi tutti i tecnicismi che poi vorranno dimostrare, hanno voluto dimostrare in seguito, insomma, lasciano il tempo che trovano. Quindi a questo punto bisogna chiamare in causa Donati, che per decenni è stato la spina nel fianco del CIO. Le prove hanno detto questo. Poi su Fassone una cosa, perché Ordine diceva prima il vostro ospite che praticamente il Milan deve avere una continuità con la gestione Berlusconi. In effetti prendere Fassone, che è un parametro zero, un ex interista, è un fascino settecentesco più o meno, è avere una continuità. Poi... Sì, però secondo me è anche sottovalutare chi è Fassone, che è un ottimo dirigente italiano, tra l'altro polivalente, nel senso che, ha competenze finanziarie, ha competenze in quei rapporti politici di Lega. Un anno fa ha fatto lui la campagna insieme ad Ausilio, la campagna mercato. Però capisco, Antonio, che possa non piacere, che possa, però almeno è una scelta, che possa lasciare, Giovanni, perplesso. Però almeno è una scelta che la nuova proprietà ha fatto praticamente in tempo zero. Ed è la stessa scelta che si poteva legittimamente chiedere alla nuova proprietà, sempre cinese, dell'Inter. Io di questo resto convinto. Vincenzo al volo, buongiorno. Buongiorno, sono quello che ha chiamato la sorta su Mancini, che ho fatto l'agliatura dei giovani. Io sono sempre per i giovani. Dimmi un po', ma Fassone all'Inter mica ha fatto tanto bene? Se noi vediamo l'Inter adesso non può comprare nessuno, su grande professionista a me non mi sembra, può anche darsi che mi sbaglia. Insomma, ha fatto bene, ha fatto il manager. A parte che l'Inter sta comprando, non è che non può comprare nessuno. Sta comprando, e poi non è che il mercato lo facesse direttamente Fassone, stop. No, ma poi soprattutto non faceva le strategie economiche, finanziarie e sportive del club. C'era un presidente, c'era un proprietario che era molto vicino e molto presente nella vita dell'Inter, che risponde al nome di Massimo Moratti, che ha fatto benissimo, e poi ha lasciato anche la situazione che abbiamo conosciuto in questi anni. Io ridimensionerei un po' il fattore Fassone in tutta questa cosa. Però sì, lo ridimensionerei anch'io. Riusciamo a parlare con Stefania prima di aggiornare la seduta alle 18, quando saremo tutti convocati alle Olimpiadi, anche voi? Stefania. Buongiorno. Buongiorno, dica. Allora, e secondo me Alex Zaxe, scusami come ho detto male, è innocente, è una vittima. Io dico che se fossero onesti questi che lo giudicano colpevole, avrebbero dovuto ripetere, perché le tracce c'erano anche successivamente, e invece nei prelievi successivi non lo è. E allora è evidente, non è che si tratta di credere, di essere creduloni, ma è evidente che c'è cattiva fede. Stefania, ho capito, però Stefania, è vero, in tutti i controlli successivi è risultato negativo, compreso quello più recente, però... Quella provetta in questo caso fa testo e fa giurisprudenza, e quindi su quella si è basata si è basato il TAS e non sui controlli successivi, che vedevano Schwarzer negativo e dunque innocente. Quindi rimaniamo, ripeto, al livello di mere sensazioni illegittime finché si vuole, perché io condivido le vostre, e anche Giovanni Capuano, con cui ci troveremo più tardi, tutti convocati alle Olimpiadi alle 18, parleremo ampiamente di questo caso e di molti altri temi olimpici. Vi invito a lasciare i vostri messaggi vocali WhatsApp 349-238-6666, a chiamare più tardi. Intanto grazie a Giovanni Melchiori in redazione, insieme ad Albise Falzone, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Capuano qui con me, anche alle 18, ci sentiamo dopo. Vado a giocare, ci vediamo dopo.